vuoi che vada? Se nell'aria non c'è più il tuo profumo di marmellata, e quanto l'ho amato ieri, per non parlare dei tuoi sciocchi pensieri. E allora che si fa in serata? Qui giro in paese, marciapiede dopo marciapiede, un cucciolo di donna solo non può restare, e allora lascio tutto. Io vivo e vivrò con te solo se lo vuoi, tu regina, io re. Io vivo o forse non vivo, che strano ancora respiro l'aria che c'è in me. E sono qui solo guardando il tramonto, mi giro da un lato e vedo il tuo volto. Gente come te, o meglio sopravvivo per chi non c'è, e allora vivo, a volte sorrido pensando a te, pensando a me.